America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Well, good morning. We're at the headquarters of BuzzFeed, one of the world's most popular viral news sites. Michael Bloomberg, il sindaco americano, lo avete sentito? Beh, in questo momento stava parlando al numero 54 della 21esima Street West, in pieno dunque Flatiron District, devo dire in pieno Made in New York District, e parlava, come avete sentito, di high tech. Ai miei tempi, dice Bloomberg, quando cominciavo io, proprio lui, poi tra l'altro che è un pioniere dell'informazione digitale, dice, non c'era internet, non c'erano neppure computer, oggi sembrerebbe impossibile lavorare con i mezzi di allora, però ce la facevamo lo stesso ed eravamo all'avanguardia. Ecco, il sindaco ha riportato New York all'avanguardia annunciando questa sua iniziativa Made in New York. Potrebbe sembrare uno slogan manifatturiero, in realtà si aggiunge alla Made in New York Digital Map e sono delle iniziative high tech che vogliono incoraggiare le nuove startup digitali attraverso programmi e incentivi, per esempio aiutando le aziende a trovare dei locali in affitto a buon mercato, creando contatti, sponde per sviluppare applicazioni, aprendo le porte di possibili finanziamenti di venture capitalist che mobilitano il capitale e poi sono una parte integrante di questa catena produttiva. Ecco, il settore a New York, il settore high tech è ormai una parte importante dell'economia. Pensate che se si va su questi siti internet d'appoggio sviluppati dalla città di New York per sostenere il settore, ci sono oggi 3.000 offerte di lavoro, 3.000 nel momento in cui da noi si fatica persino a pensare che possano esserci delle opportunità di lavoro. Fra il 2007, l'anno in cui parte la grande recessione americana, e il 2011, il settore ha aumentato l'occupazione digitale in città dell'80% e le operazioni di venture capital, sempre nello stesso periodo, sono salite del 52%. Ecco, su questi temi è uscito in Italia un libro, devo dire, molto interessante, Tech and the City, che dedica a una approfondita analisi di quello che è successo a New York, di come nascono operazioni di venture capital nel settore digitale, appunto un libro intero. È una specie di manuale per come aiutare la crescita di questo settore. Gli autori sono Maria Teresa Cometto, che è una giornalista, una collega qui a New York ormai da molti anni, scrive per il Corriere della Sera, Alessandro Piol, che è un vecchio amico, anche con lui ci conoscevamo dai tempi pieni di belle speranze molti anni fa. Beh, Alessandro Piol è riuscito a creare una sua società di venture capital che appoggia questo settore. Sono con me ai microfoni di America 24. Allora, Alessandro, insomma, tu ogni giorno hai sul tavolo delle proposte di giovanissimi che vogliono fare un investimento, che vogliono lanciarsi nell'avventura high tech. Come valuti queste proposte? Come funziona? In effetti a New York c'è molta attività, perciò vediamo tantissime proposte. Il modo in cui valutiamo queste proposte dipende un po' dai temi in cui vogliamo investire e più che altro dipende dalle persone che gestiscono queste aziende. Una proposta recente aveva a che fare, per esempio, con la distribuzione di libri digitali, che è una cosa che chiaramente adesso è cara al mio cuore, perciò ho valutato attentamente questa proposta, stiamo ancora vagliandola, ed è così che nascono le opportunità. Ragazzi, gli imprenditori mi chiamano, mi mandano una proposta, vengono a trovarmi, passiamo del tempo insieme per capire se veramente la proposta è valida. Quanti siete investitori, venture capitalist, qui a New York, che vi occupate di questo settore, più o meno? Ma ci sono tantissimi gruppi, ormai New York è molto stabilita come centro di venture capital, perciò io posso contarne facilmente una cinquantina di aziende, mentre ci sono 3, 4, 5, 6 investitori per azienda, allora i numeri su 300 persone che cercano deals. Ed è questa una componente chiave per lo sviluppo di questo settore? Una componente chiave, tra l'altro non abbiamo menzionato il fatto che sono investitori angeli, perciò investitori individuali che magari hanno fatto soldi in precedenza e adesso li reinvestono in queste attività. Perciò i numeri sono anche molto più grossi. Chiaramente il capitale è una cosa chiave. I investitori angeli investono in società che sono molto piccole, sono proprio all'inizio, sono proprio delle start-up, mentre i venture capital investono un po' a tutti gli ecco, stati. Dovendo fare una proporzione, un rapporto, fatte pari, diciamo, popolazione, economia, Italia, Stati Uniti, Milano, New York, eccetera, Quale dovrebbe essere il rapporto di venture capitalist a Milano per poter avere, diciamo, un pari passo a quello che abbiamo a New York? E quanti ce ne sono? Siamo avanti, siamo indietro, siamo pari? Noi abbiamo passato un po' di tempo in Italia recentemente, presentato il nostro libro, abbiamo conosciuto moltissimi imprenditori. Io penso che il numero di investitori che esistono in Italia sono molto di meno rispetto al, come proporzione rispetto al numero di opportunità che ci sono. Ecco, Maria Teresa, insomma, è stato un viaggio entusiasmante, immagino. Flatiron District, Silicon Alley, ormai i nomi si moltiplicano, scriviamo di queste cose da anni, ma tu a un certo punto ti sei buttata per le strade e hai visto queste aziende. Raccontaci un po' cos'è stato questa avventura esplorativa in questo mondo high tech. Ci ha permesso veramente di conoscere situazioni che pochissimi sanno che esistono. Per esempio, pochissimi sanno che Google ha il palazzo più grande che c'è a Manhattan, è un intero isolato per percorrere il cui perimetro ci vogliono 9 minuti. Ci sono dentro 3.000 dipendenti, di cui 2.000 ingegneri, ed è divertentissimo vederli sfrecciare sui monopattini da un lato all'altro del palazzo, per esempio, oppure chiacchierare nelle tante zone di relax e anche di lavoro comune. È stato bellissimo. Scusa, Google ovviamente è il grande gigante, ma i piccoli, qual è un piccolo che ti ha colpito? Beh, un piccolo che mi ha colpito per esempio è Branch, che è una piccola società dentro una co-working space. Ce ne sono moltissimi, ci sono interi palazzi trasformati in alveari che brulicano di questi ragazzi intenti nel mettere sulla loro startup. Lui sta nel Meatpacking District, che tutti quanti conoscono per i locali, le boutique, i nightclub eccetera, e invece ci sono anche lì delle piccole startup come questo Branch, costruito da un ragazzo che ha lasciato Princeton per mettere su la sua aziendina, incoraggiato da Fred Wilson, che è uno dei più grandi venture capitalist di New York, che ha scritto fra l'altro la prefazione alla versione inglese del nostro libro. Ed è stato bello vedere questo ragazzo pieno di entusiasmo in un posto inusuale. Ecco, insomma, aiutati che il ciel t'aiuta, dice il proverbio, e devo dire che questo settore è avanzatissimo in questa città, perché dà occupazione una gran quantità di gente, uno dei pilastri dell'economia cittadina. Eppure Bloomberg si butta ancora in avanti, annuncia questa nuova iniziativa Made in New York, che vuole creare una specie di censimento di tutte queste aziende che hanno almeno il 75% di quello che producono fatto in città, non con l'outsourcing in India, in Ucraina o in altri posti. Quindi questo sindaco, questa città si muove in avanti. Mi ha anche colpito che c'era in questa conferenza stampa un Chief Digital Officer, cioè il capo digitale per la città. Alessandro, ma abbiamo un digital officer da qualche parte in Italia? Penso di no, non sono sicuro, però non ne ho incontrato nessuno ancora. Maria Teresa? Assolutamente no, ed è proprio quello che manca in Italia, cioè il ruolo di un'istituzione non che dia soldi a destra e a sinistra, come troppo spesso succede in Italia, ma che invece incoraggi e dia peso ed importanza a queste iniziative proprio da un punto di vista politico. Ed è quello che è successo a New York, e gli imprenditori lo apprezzano tantissimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di New York, energia, high tech, nuove frontiere, non solo Broadway, non solo moda, non solo spettacolo, televisione, musei, ma anche nuove frontiere digitali. Una costante che ci dà un'ispirazione andando un po' retro in una canzone che non morirà mai, Frank Sinatra, New York, New York. Right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.